Storie italiane. La principessa più giovane e il principe più giovane. Guida per i genitori. Alcuni contenuti di questo video potrebbero non essere adatti a bambini di età inferiore ai 13 anni. C'era una volta un re che viveva con i suoi 8 figli. 4 bei principi e 4 belle principesse. Il re ne era orgoglioso, ma voleva farli sposare. Come posso far sposare i miei figli? Pensò per un po' e poi si guardò la mano. Oh, cos'è questo? No! Padre, cosa c'è che non va? Oh, figlia mia, tesoro, cosa faccio? La principessa era sconcertata. Oh, vieni, andiamo. Ho qualcosa da dirvi. Miei cari, sembra che mi sia venuta una terribile malattia. Cosa? Oh, no! Ma il dottore... Quindi ho deciso di farvi sposare, dato che io temo per il vostro futuro. Non voglio che restiate tutti, soli. Il principe e le principesse si guardarono l'un l'altro inorriditi. Non avevano assolutamente alcun desiderio di sposarsi e i fratelli più piccoli, Giulia e Robert, erano i più scontenti di tutti per questa notizia. Sta recitando di nuovo, non è vero? Ah, sì. Cosa facciamo? Il giorno successivo, il re invitò possibili sposi e spose di tutto il regno per i suoi figli. Padre, io non voglio sposarmi davvero. Oh, tesoro, potrei non essere vivo troppo a lungo, quindi devi farlo, dico io. E così i principi e le principesse accettarono il loro destino. Alla fine, il re andò da Giulia e Robert. Prima che il re potesse aprire la bocca, Giulia cominciò a parlare. Padre, Robert e io non vogliamo sposare nessuno. Vogliamo scegliere i nostri partner da soli. Ma, miei cari, siete così giovani. Non preoccupatevi. Vostro padre sa cosa fare. Sì, ma... vogliamo comunque uscire e vedere cosa possiamo fare da soli. Voglio dire, sono le nostre vite. Sì, e decidere noi con chi vogliamo passare il resto delle nostre vite. Mi dispiace, padre, ma... ma andremo a cercare i nostri partner da soli. Non vi importa di me, vero? Oh, sento che la mia malattia sta peggiorando. Non penso che funzioni così. Oh, padre. No, va bene, fate come volete, ma non venite a piangere da me quando la vita sarà troppo difficile per voi. Sei tu quello che sta piangendo. E così lasciarono il palazzo, lasciando il re un po' preoccupato. Oh, i miei poveri bambini, cosa faranno? Spero di essere ancora vivo quando torneranno. Presto i due raggiunsero un altro regno e provarono a chiedere lavoro, ma senza successo. Dopo aver vagato e provato a lungo, finalmente entrarono in una locanda. Mi scusi? Sono un medico in viaggio. Avresti qualche lavoro per noi? Perché dovrebbe servirmi un medico? Va via, non ho bisogno di te. Per favore, non sono solo un dottore, posso fare altre cose come... Sai cucinare? Ne ho davvero bisogno qui. Cucinare? Sì, so cucinare. Posso cucinare, pulire, tutto quanto. Beh, allora, credo che ti assumerò. E mio fratello? Se non lavorerà qui, nemmeno io lo farò. Bene, troveremo un posto per lui. Giulia lavorò diligentemente. La proprietaria notò quanto fosse bravo Robert e gli affidò il lavoro di manager. Un giorno, per caso, sentirono una conversazione del principe Andrew, che era da lungo tempo malato. Sembra avere delle strane bolle sul suo corpo. Nessuno è stato in grado di curarlo, però. Giulia lo sentì e si rivolse a Robert. Robert! Ascolta, so che le foglie di neem sono in grado di curare la malattia del principe. Fantastico! Andiamo a prendere le foglie oggi. So dove crescono. Andarono all'albero e strapparono alcune delle foglie. Le portarono a casa e Giulia schiacciò e bollì le foglie in acqua. Dobbiamo portarlo dal principe. Ma come? Glielo porterò io, travestito da messaggero, così non mi riconoscerà. Quindi, il giorno dopo, Giulia andò al palazzo del principe con l'acqua di Neem. Disse ad Andrew tutto sull'acqua e su come lo avrebbe guarito. E cosa ti fa pensare che funzionerà? Così tanti hanno provato prima e hanno fallito. Beh, io non fallirò. C'è una foglia dentro e ti prometto che è speciale. Molto bene. Ma se non funzionerà, sarai punito. Più tardi quel giorno, Andrew si strofinò un po' d'acqua sulle braccia e col passare del giorno notò che le bolle erano diminuite. Alcune erano addirittura scomparse. Wow, funziona davvero! Meglio chiederne di più. E così nei giorni successivi Giulia visitò ancora il principe per dargli dell'acqua. E infine Andrew guarì. Ce l'hai fatta! La tua medicina è stata fantastica! È incredibile, Altezza! Sono così felice per te! Andrew rimase scioccato. Tu sembri una ragazza! Chi sei? Giulia era stata scoperta e lo sapeva. Si tolse il travestimento e il principe rimase sbalordito nel vedere che il suo dottore era una donna. Giulia gli raccontò tutto di lei e di Robert. Io sono venuta qui per trovare una persona da amare. Beh, c'è una possibilità che tu possa amare me? Sei davvero intelligente e molto gentile. La verità era anche che Giulia si era innamorata profondamente di Andrew in quei giorni. Accettò la sua proposta e presto si sposarono. Robert, sono così felice. Sono molto felice per te, Giulia. Spero che tu abbia una vita davvero felice. Il giorno successivo, Robert prese congedo da sua sorella e andò a cercare la sua principessa. Viaggiò lontano e presto arrivò in un altro regno. E mentre si chiedeva cosa fare, sentì un uomo parlare tristemente con il suo amico. Ero così sicuro delle mie risposte. Indovinare i tre hobby della principessa è un compito così difficile. Ho perso l'occasione di sposarla. Oh, questo sembra interessante. Tentiamo la fortuna. Quindi Robert si travestì da aiutante e si intrufolò all'interno del palazzo. Lì osservò la principessa Michelle mentre faceva il suo solito giro. La principessa è davvero bellissima. Quindi le piace dipingere. Ma la principessa notò presto di essere osservata. Ma dov'è? Ciao. Perché mi stai seguendo? Perché io ammiro davvero i tuoi dipinti. Questo rese Michelle davvero felice. Presto iniziò a parlare e a mostrare tutti i dipinti che aveva realizzato. Ne conosco uno. Me ne mancano ancora due. Robert seguì da vicino Michelle. Un giorno, quando la cucina era vuota, la trovò mentre preparava una torta in segreto. Ciao! Cosa sta facendo una principessa qui? Oh, perché sei qui? Beh, io sono l'aiutante qui. E tu, ti piace preparare torte? Sì, io adoro cucinare torte. Ah, è un po' buffo da vedere. Dillo ancora dopo aver provato una fetta di questa torta di frutta. Robert mangiò un pezzo e subito ne rimase impressionato. Non è così buffo ora? Questa torta è buonissima, devo dirlo. Michelle fu contentissima di sentire questo e Robert era davvero felice di aver scoperto il suo secondo hobby. Alcuni giorni dopo, Robert era seduto in giardino. La principessa Michelle è una donna davvero interessante. Mi chiedo quale potrebbe essere l'ultimo hobby. Proprio in quel momento sentì un rumore e vide una figura con un mantello sgattaiolare via. Mentre guardava, vide che era la principessa Michelle. Quella è la principessa. Dove sta andando? La seguì mentre lei sgattaiolava attraverso il villaggio nelle strade affollate. Uff! Oh! Dove sta andando? Presto entrarono in un vicolo buio e il principe si nascose. Ecco, signora, questa ciotola di zuppa ti aiuterà. Oh, grazie, mia cara. Che cos'hai per me? Per te ho questo cappotto incredibilmente caldo. Robert osservò tutto questo con molta ammirazione. La principessa va in giro a visitare e aiutare molte persone povere e bisognose. Dopo aver scoperto i tre hobby della principessa, tornò subito nel regno di Andrew. Chiese ad Andrew un abito reale e alcuni regali per chiedere la mano della principessa in matrimonio. Va bene, prendi tutto ciò che ti serve. Il principe Robert tornò nel regno di Michelle. Alla grande. Quando si incontrarono, lei non lo riconobbe affatto. Sono venuto per tentare la mia fortuna con la sfida che hai lanciato. Ah, provaci. Il principe Robert sorrise e iniziò a dare le sue risposte. Il primo hobby che ami così tanto è la pittura. Esatto. Ma questo è un hobby comune. Prova il secondo. E preparare torte nella cucina quando non c'è nessuno? Cosa? Io voglio dire... sì, lo è. Ma non puoi sapere l'ultimo. Davvero? Cosa potrebbe essere? Potrebbe essere che sgattaioli fuori per le strade e aiuti tutta la gente del regno? La principessa rimase scioccata poiché tutte le tre risposte erano corrette. Bene, ho ottenuto la tua mano. Vorrei davvero sposarti. Il tuo cuore è dolce e buono come le torte che cucini. Improvvisamente si rese conto di chi fosse Robert. Era piuttosto stupita dal modo in cui lui aveva recitato ed era anche molto felice, perché sapeva che era intelligente, divertente e premuroso. Il giorno dopo, lui e Michelle si sposarono e subito dopo il matrimonio, sia Robert che Giulia andarono a visitare il re con i loro rispettivi partner. Il re era molto sorpreso e felice che i suoi figli avessero sposato persone così gentili. Padre, hai un aspetto davvero migliore. Il re spiegò che la sua malattia non era poi così grave e il dottore lo aveva guarito completamente. Oh, ho reagito in modo un pochino eccessivo, ma sono così felice che siete tornati a casa felici. I miei bambini più giovani, sono così orgoglioso di voi. Avete trovato l'amore. Ah, prima donna. Intendi re? E così il re Otto si rese conto che spingere i suoi figli a fare quello che lui voleva era una cosa molto sbagliata da fare. Bisogna sempre consentire ai bambini la libertà di scegliere il proprio destino senza costringerli a fare le cose.